Devo dire che l'anno prossimo la Serie A è interessante, c'è Ibra, c'è Ronaldo, forse Suarez, un sacco di giocatori forti e di nome che potrebbero far tornare in auge un po' la Serie A in tutto il mondo. Però non vi sembra che sia un po' il cimitero degli elefanti? Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sappiamo dove iniziamo, io e il mio staff avevamo ipotizzato di giocare la prima contro una genovese, in effetti è uscita la Sampdoria, siamo contenti di giocare la prima partita in casa davanti al nostro pubblico. Beh, per il Napoli è andata bene, gli altri non ho fatto caso. La Juve alla terza giornata, è meglio subito togliersi questo dente oppure sarebbe stato meglio qualche giornata? La Juve la devi incontrare, quindi anche la Juve incontrerà il Napoli. Perché se no parliamo sempre della Juve come se fosse un mostro sacro. Abbiamo sempre una partita difficile ma contare alla Sverona, dopo giochiamo a casa con Juve, è un inizio complicato. Serbia la quarta, Paolo, un po' come l'anno scorso, no? Sì, purtroppo sì, perché l'anno scorso abbiamo avuto due sconfitte, l'ultima in maniera veramente clamorosa, giocando credo un calcio bellissimo. Questi riflessi da calendario più o meno li avrete riconosciuti, da Pirlo a De Laurentiis a Fonseca, eccetera. Edoardo Lavezzari in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Oggi puntata che stavo aspettando da molto tempo, speciale, straordinaria, tra poco vi dico perché, subito dopo il Radio Tweet di Pierluigi Pardo. Ciao, allora Radio Tweet è in onore del nostro ospite in studio ed è dedicato a Messi. Sappiamo che nelle ultime ore si fa spazio anche l'ipotesi di un clamoroso ritorno alla base. Io però prendo in prestito le parole di Sergio Ramos e dico che al di là del piacere che tutti avremmo di vedere Messi giocare in Italia, e devo dire la verità, a me piacerebbe vederlo anche al City al limite, o insomma dall'altra parte, cioè io ho questa curiosità, però non può finire così, ecco, mi viene in mente una vecchia battuta di un film di ben altro argomento, non può finire così, nel senso che una storia così bella, così senza macchia e senza paura, alla fine, adesso che ci siamo fatti prendere, è passato qualche giorno, no? Dall'ebbrezza, dal momento, dall'adrenalina giornalistica, insomma, se finisse così l'avventura fra Messi e Barcellona, non credo che sarebbe una cosa bella, nemmeno per lui e per la sua immagine, quindi insomma, adesso un accordo si deve trovare, ma non nella maniera così burrascosa, secondo me, che si è palesata nei giorni scorsi. Quanto ti voglio bene, ti hanno dato tutto il romanticismo che hanno negato a me. Ma no, ma davvero, ma davvero. Beh, allora, oggi molto tu, pochissimo io, ma oggi puntata straordinaria perché ogni tanto succede che la montagna venga a tutti convocati. Filippo Maria Ricci non è collegato da Madrid ma è qui davanti a me. Ciao Filippo. Un piacere stare qui con voi, vedersi splendore. Ogni tanto e non capita spesso e quindi no, purtroppo no, Pardo lo vedi un po' più spesso per le sue trasferte europee mentre io te ci vediamo poco. Dunque c'è fatto l'ultima trasferta europea, prima del lockdown, quella tra Atletico Madrid, Liverpool, l'abbiamo Bobo anche Vieri, già raccontato, capo cannonieri con i tifosi fuori, e veramente sai, sembra un film, ripensare a quella partita, a quella scena dopo, tra l'altro interessante, e, insomma, all'apparente normalità di tutto quello, ed era la settimana prima del lockdown, sì. Era tre giorni prima del caso, sì, sembrava 10 anni fa. Sembra sì. Ma tra un po' si ricomincia, poi parliamo anche di questo. Ci sono speranze di riapertura molto parziale degli stadi, prima c'è stato il governatore Piemonte Cirio con Alessio Maurizi, poi parliamo anche di questo argomento, ma intanto Messi, e invito gli ascoltatori 800 24 00 24, numero verde, WhatsApp vocali 349 238 6666. Filippo Mariarici è qui, potete chiedergli quello che volete, compreso come finirà questa storia. Ci sono altre puntate nelle ultime ore, Filippo? Sì, stamattina c'è un sì, due lettere. Il padre di Messi è entrato negli uffici della Fondazione Leo Messi a Barcellona, è stato fermato da Deportes 4, quindi la televisione 4 spagnola, gli hanno chiesto: ma allora c'è la possibilità che Messi resti al Barcellona? Risposta: sì. E poi è entrato. Queste due lettere, che è una novità, ieri notte l'aveva detto in anteprima un giornalista argentino, Martín Arévalo, però dalla Spagna la notizia era stata presa un po' con le pinze, perché lo stesso giornalista due giorni prima aveva detto che se ne andava sicuramente, perché poi le cose cambiano, quindi non è che il giornalista ha sbagliato, però le situazioni sono in movimento, tante volte ci accusano, no ma tu avevi detto, esatto. Però ieri sera, stanotte l'ha detto solo lui, adesso lo dice anche il papà di Messi, in questo momento se tutto la famiglia è riunita per prendere una decisione, magari arriva anche oggi o tornano indietro. Il punto è molto chiaro: pensavano di andarsene via gratis, si sono resi conto che gratis via non vanno, al massimo vanno in tribunale, e quindi il City gli ha detto no, in tribunale noi con voi non ci veniamo, e quindi va tutto rivisto. Anche perché avranno sentito Pierluigi Pardo che dice non può finire così. Esatto. Comunque quindi... questo è verissimo, è così, non può finire così. Io, cioè, premesso io che sono con Pier. I grandi calciatori hanno sempre ragione, perché poi insomma voglio dire, viaggiano a un livello talmente superiore rispetto alle nostre umili vite, hanno talmente un grande peso contrattuale che poi alla fine vincono sempre loro. Però possiamo fare un primo pit stop per dire che allo stato dell'arte di oggi la situazione non è stata gestita bene. No, malissimo. Perché Messi adesso si trova in una condizione paradossale, nella condizione di uno che è appunto, cioè, rischia di trovarsi in mezzo a un guado, e alla fine di dover accettare il Barcellona e di dover trovare anche una dignitosa via d'uscita. Per molestando che stiamo parlando del giocatore più forte del mondo, poi fate voi il dibattito con Cristiano Ronaldo, lo riapriamo per la millesima volta, ma se non è il primo è il secondo, insomma stiamo parlando di Messi, no? E quindi del sogno di tutto. Poi un'altra il cosa mondo. Scusa Pier, comunque tutto questo, lui torna indietro in mezzo al guado, già c'è, torna diciamo che torna indietro, però poi per poi andarsene l'anno prossimo gratis, quindi comunque il finale sarà tende a essere inglorioso, perché lui dice vabbè, allora visto che non posso andare via gratis quest'anno vi faccio la grazia, sto con voi un altro anno e poi l'anno prossimo me ne vado via totalmente gratis. Controvoglia addirittura, si leggeva potrebbe non mettersi in aspettativa, non giocare, no, non essere pagato, stare fermo, no lui appunto non credo, però no, esatto, torna la indietro. Motivazione è importante per un calciatore, no? E poi attenzione, se se ne va Suarez, che è il suo migliore amico. Adesso parliamo anche di parliamo anche di Suarez e del suo passaporto, perché qui c'è un altro film da ripercorrere. Il povero Pjanic, sai che imperversa sul web tutta la cosa. Pjanic, grande giocatore tra l'altro, che insomma giustamente è stato preso a Barcellona, e io credo che il Barcellona comunque sia un punto d'arrivo assoluto, con tutto rispetto per la Juve, ma insomma, ci sta che un giocatore dalla Juve va dal Barça o viceversa, quindi ci va con tutta l'adrenalina in corpo e poi si trova in questa situazione abbastanza paradossale. E col coronavirus. No, però ha ragione Pierluigi quando dice questa vicenda a Messi è stata gestita malissimo. Gran parte della responsabilità è di Messi. È di suo padre e da quello che ho saputo io, dello studio di avvocati ai quali si sono affidati, che gli hanno consigliato di mandare il famoso burofax, che poi un fax non è, però così si chiama, dicendo noi ce ne andiamo e ce ne andiamo gratis. E poi però alla lettura dei documenti tutta questa certezza è venuta a meno, si è sgretolata, e quindi c'è la necessità di trovare un accordo, e l'accordo è: o se ne va pagando magari non 700, qualcosa in meno, oppure resta. E questa è la sua. Poi c'è tutta la vicenda mediatica, perché se questa cosa qui è chiaro che quando siamo di fronte a Messi è praticamente impossibile che mantenere il riservo e il segreto, no? Però se questa vicenda qui fosse stata in qualche modo tenuta segreta, le cose sarebbero state completamente diverse. Insomma, per Piero, un burofax di Messi tenerlo segreto, cioè, no, è impossibile. Come fai? Però voglio dire, se ci fosse stata una trattativa, una dialettica senza questo famoso burofax, nella quale comunque Messi diceva guardate, io me ne voglio andare a parametro zero, in maniera, cioè, a quel punto potevi fare una trattativa, adesso la trattativa non la puoi più fare, no. Nel senso che veramente o vai per avvocati, sono sicuro che Messi abbia ragione, io no, è questo, non lo sanno più nemmeno loro, no, sa, per quello non lo sa nessuno. Quello che però invece mi interessa, e volevo chiedere a Filippo, perché in qualche modo può essere anche interessante come modello, come esempio, giusto o che sia, è il comportamento che ha avuto la Liga. Cioè, a me ha colpito molto domenica quel comunicato, perché insomma, è un attacco di panico quello, eh? Ma d'altra parte ha colpito anche me, adesso Filippo ci spiega, però insomma vale come le parole di Modric che oggi dice: beh, se va via Messi per il campionato spagnolo è un colpo durissimo, dopo che hai perso Cristiano Ronaldo, hai perso Neymar, ora non, se hai ne va anche, non hai preso Mbappé, ora se ne va anche Messi. Real Madrid e Barcellona, ha visto pure Ramos ieri, ha detto no, è meglio per il classico, deve rimanere, cioè, capito, cioè, a Madrid uno potrebbe essere contento di vedere Barcellona, no? Però questo ti fa capire, per questo ho ritirato fuori l'argomento, ti fa capire il livello di imprenditorialità e di coesione che c'è a livello di Liga Spagnola, no? Ieri ne parlava Cairo, ricordava le parole di D'Alpino. Cioè, io adesso non so quale sia la direzione giusta dove andare, però sicuramente dobbiamo crescere in termini proprio di unità di intenti fra presidenti. Questo è un esempio classico, cioè quella che potenzialmente può essere considerata una tragedia per il Barcellona e quindi un'ottima notizia da tifosi per il Real Madrid, per l'Atletico Madrid, per le altre, però in realtà in un contesto più complessivo è una sciagura per il calcio spagnolo, al punto che la Liga adotta una presa di posizione così precisa e così perentoria. E no? Una cosa lì, se vuoi ti posso aggiungere, a me aveva fatto specie, infatti l'avevo anche scritto, la Liga ha preso posizione prima del Barça. Cioè il Barça non si è mai pronunciato, non c'è stato un comunicato del Barça, c'è stato un comunicato della Liga. Io ti dico, di pensare quasi che abbiano mandato avanti la Liga, abbiano utilizzato la Liga in senso buono come testa di ponte per poter cominciare a cambiare l'opinione pubblica e cambiare e da quel giorno sono cambiati gli scenari, Sì. E la domenica sono cambiati gli scenari dal punto di vista tecnico, perché si è capito che il Barcellona non ci stava a farsi portare via il giocatore gratis, e forse nemmeno con una trattativa, diciamo così, simbolica, ecco. No, certo. No, io ti dico una cosa, lì quello è stato un vero attacco di panico da parte della Liga e del suo presidente, perché veramente, cioè, senza, soprattutto poi c'è una cosa, attenzione, un conto, perché lui infatti l'esempio qual è? Xavi e Iniesta sono andati via gratis, però uno è andato in Giappone, uno in Qatar. Certo. Questo va in Inghilterra, che è il competitor numero uno. Cioè, infatti per quello noi qua abbiamo sempre detto magari viene in Italia, no? Magari venisse in Italia. Certo. Perché noi siamo magari un pochino indietro. Tebas si è sempre gloriato del fatto: ah, noi comunque abbiamo perso Cristiano Ronaldo, i contratti sono stati anche migliorati, non ha avuto nessuna ripercussione negativa, e vabbè, lo dice lui e noi lo prendiamo per buono così, però adesso sì che aveva paura, e se veniva da noi sarebbe stato spettacolare. Invece va in Inghilterra, che è il suo competitor numero uno, e infatti è sceso subito in campo, anche se poi appunto lì in realtà poi il transfer, lui ha detto no, il transfer non lo diamo, il transfer lo deve dare la federazione, insomma la FIFA secondo me gliel'avrebbe anche concesso, però poi lì è stato il City stesso che ha detto no. Ne parlavamo la settimana scorsa, ti ricordi, Pier, con Capuano aveva fatto una domanda simile, dice ma una squadra può rischiare di prenderlo? Io ho detto no, non, e infatti non rischia, perché se poi dopo tra un anno il tribunale catalano, quindi non è che il tribunale sta a Nyon o non so dove, in Catalogna, a Barcellona, il tribunale dice bene, ha ragione il football club Barcellona, paghi 700, ma anche se devi pagare 300, 200, qui stiamo con la possibilità che adesso faccia un clamoroso dietro fronte e vada ad allenarsi. Certo, che leggevo delle cifre iperboliche, non so quanto corrette, che il City sgancerebbe a Messi, si parlava di 11 milioni al mese, cioè di soldi reali. Sì, ma siamo a livelli neanche di calcio, di imprenditoria, siamo a livelli di feticismo. Sì. E poi in un momento come questo, prendersi, con gli stadi chiusi, bravo, è come ti chiusi, compri la Gioconda e la metti in bagno almeno per 6 mesi. No, Pier, dice, fai la presentazione, dice, la porti a San Siro, a Lettia, dove ti pare, e sì, non c'è nessuno. Dai. È chiaramente un non può finire così, come ha detto Pier. Non può finire così, ma posso dire, non può finire così neanche per Messi dal punto di vista, cioè, esatto. Se tu per 20 anni della tua vita, cioè voi immaginate Totti o Avia Zanetti o Del Piero. Cioè, un conto sono le polemiche, lo sappiamo tutti che Del Piero voleva continuare a giocare, in quel momento non c'era dal punto di vista tecnico il margine, però comunque il rapporto formale e credo poi anche sostanziale di affetto con la Juve è rimasto. Qui finisce, cioè, non puoi finire una storia del genere con le carte bollate così, dai. Non è accettabile. Totti ha avuto dei problemi, lo sappiamo, a parte finale della carriera con Maldini, Palletti, ha avuto dei problemi al suo addio col Milan. Ci ricordiamo l'addio di Totti, che cosa è stato, i motivi per tutti, non soltanto per i tifosi del Roma, è stata un'intera generazione di appassionati di calcio che comunque si è emozionato. Stesso discorso per gli altri, per Maldini, per la Zanetti. Quindi voglio dire, ci possono essere delle polemiche della vita. Zanetti è rimasto assolutamente all'interno dello staff e dell'entourage. Maldini per un certo periodo erano fuori, però poi il cordone esiste, ecco. Questa roba qui è troppo. È arrivato bambino che non poteva crescere, insomma, poi tanto che dicono Messi argentino, Messi catalano, è arrivato lì a 12 anni, cioè è uno di Barcellona, un ragazzo di Barcellona. Aldo da Pisa, un ascoltatore. Lo vorresti a Boca? No, io vorrei che vincesse qualcosa con la nazionale argentina, e questo è uno dei grandi argomenti del contendere. Ma poi sappiamo che se vai in Argentina può andare solo al San Lorenzo dopo preghiera. A San Lorenzo dopo preghiera superiore. Se mi dice che scende in campo Papa Francesco. Aldo, divinità sacra e profana. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Volevo due cose, per favore. Sì. Una dovreste dirmela voi, cioè soprattutto Pardo, perché non hai più a Tiki Taka quest'anno? Ah, proprio così. Ma no, ho fatto un'intervista al Corriere della Sera. No, ma insomma è una fase della mia vita che in questo momento considero superata. Insomma, se approfitto, ho fatto già per fare in bocca al lupo a Chiambretti e a tutti gli altri. Ma veramente, cioè, ho letto una marea di robe in questi anni, in questi mesi, in questi anni, su polemiche. In realtà continuo a lavorare con Mediaset, ma ero. Vorrei dimostrare di fare altre cose magari in futuro, e soprattutto ho già mille cose da fare, fra cui quella che mi piace più di tutti, che sono le telecronache. Quindi veramente pensavo che più di tutti era invece tutti convocati, Anch'io anch'io ho pensato questo, potrei dire tutti convocati mi assorbe un po' troppo, è come la nazionale. Potrebbe essere un'idea questa, però bravo Aldo, bravo così mi piace, bravo Aldo. Dica poi l'altra cosa che vuoi sapere, sempre, no, se possiamo. Invece no, quella sono io che la devo dire a voi. Prego. Da legale è veramente incredibile che lo studio legale, me l'ha detto anche Ricci, abbia sbagliato in maniera così clamorosa. Non è uno studio legale qualsiasi, poi perché la clausola è di una chiarezza estrema. È una chiarezza estrema perché parlava del 31 maggio. Ora il 31 maggio non è il 30 giugno, quindi è un mese prima del 30 giugno. Se tutto slitta dal 30 giugno al 31 agosto, un mese prima era il 31 luglio. Quindi anche a dire con il virus slitta, ma slittava al 31 luglio, cioè un mese prima della fine della stagione. Proprio perché la clausola prevedeva un mese di margine per il Barcellona per poter rimediare, diciamo, al distacco di Messi. Quindi non aveva proprio possibilità di dire il 31 agosto. Beh, non è, ovviamente, 31 luglio. Non è così 700 chiaro. 700 milioni fino all'ultimo centesimo, non c'è nessuno sconto. No, ti ringrazio. No, grazie a lei. Non è così chiaro, ovviamente, perché altrimenti voi non è che stiamo parlando degli sprovveduti che mandano appunto il burofax così senza aver pensato. E infatti non è il problema è che nessuno è sicuro di aver ragione, ed è per questo che ci sono ottime possibilità, se vanno avanti in questo scontro, di finire in tribunale. Certo. Non c'è chiarezza. Senti, viriamo un attimo dalla questione Messi, che insomma è in totale divenire, come dicevamo ora. Siamo passati da un no secco di ieri a un sì, è possibile che rimanga a Barcellona, pronunciato dal padre oggi. Su altre questioni in blaugrana, allora Vidal libero, no? Quasi. Adesso sì, insomma, però dovrebbe liberarsi. Insomma, dovrebbe liberarsi. Mi sembra, in questo momento non ti dico di sì, però insomma, dovrebbe liberarsi. Su Suarez, poi ne parliamo in maniera più approfondita. Libero forse? Sì, libero quasi. Suarez ha uno stipendio altissimo, aveva un anno di contratto, lo manderanno via gratis, con magari insomma la possibilità che la Juve rientri, cioè la Juve paghi qualcosa in base a degli obiettivi, magari. Insomma, possono trovare una forma di questione, però andrà via. Ma ti convince? Posso farti questa? Perché ne parlavo l'altro giorno con Trevisani. Io lo prendo sempre Suarez, sì, nel senso che comunque per me la dimensione... Però dipende quello che deve fare. Certo. Ronaldo ha bisogno di Benzema e Suarez non è Benzema. questo è. C'è qualcuno più simile? Esatto, no, dico, c'è qualcuno più simile a Benzema? Sì. C'è qualcuno più simile a Benzema, cioè l'altro a cui la Juventus è interessata e si chiama Edin Dzeko, che secondo me è molto più funzionale a questa squadra e al modo di giocare di Ronaldo. Tra l'altro, e anche questa è letteratura, tra pochi giorni festeggeremo, mi facevi notare prima, un quinto compleanno, 5 anni sono tanti. Dall'ultimo gol di Suarez in trasferta, sì, in Champions, certo, a Roma, sì, no? Sì, sì. 15-16 settembre, insomma. Però ti dico, per la Serie A, cioè io sono sicuro, Suarez è uno che segna, comunque è il terzo marcatore nella storia del Barcellona in soli 5 anni e mezzo, per cui insomma è uno che è un grandissimo attaccante. Però bisogna sempre pensare, perché qua io sono stato tante volte con voi, no? Abbiamo parlato di Sarri, di quello che era la sua idea e quello che invece era il vestito della Juve, il vestito non entrava, non stava bene, eh? E adesso di nuovo, secondo me, si può, con Suarez c'è il rischio che non sia il giocatore, non si discute il giocatore, ma che non sia il giocatore più adatto a, per Cristiano però Ronaldo. Posso dire, secondo me è proprio perché Pirlo non lo conosciamo ancora, siamo in, una, certo, in certo. No, nell'ambito delle ipotesi, possiamo, ma magari questa cosa è fuorviante, essere in qualche modo condizionati da quello che era Pirlo in campo. Cioè, è chiaro che tu Pirlo non pensi a un catenacciaro, no? Non pensi a uno che fa catenaccio e contropiede, pensi a uno alla Guardiola che giocherà bene, che proverà a imporre il suo gioco, in qualche modo l'ha anche detto nelle prime dichiarazioni, però anche qui la certezza non ce l'hai. E quindi noi non sappiamo esattamente quella che è l'idea di Pirlo. E, insomma, se la Juve cerca Suarez, secondo me non è che cerca Suarez perché... No, perché gli però piace Pier invece conosciamo di più tanto Suarez come Ronaldo. Sì. Loro due li conosciamo di più, sì. E io lì ho qualche, poi appunto poi vedremo, perché magari invece Pirlo ha un'idea, sicuramente, anzi no, ha un'idea, secondo me ha un'idea, esatto, cioè, e quindi va bene questo. Però io ti dico, per conoscenza, per averli visti in campo tante volte, è una coppia che non lo so se poi può funzionare. Cioè, bene, ma io avrei pensato, cioè, appunto, perché io l'ho visto, cioè, Ronaldo con Benzema ha fatto 50 gol all'anno per 9 anni consecutivi, 450 gol in 9 anni. E perché? Perché Karim, il francese, per me è l'ideale per lui, e lo era anche per lui, era uno che si sapeva muovere, che faceva girare tutto il fronte, cioè, offensivo. Cioè, Suarez è più simile, è più un finalizzatore. Dzeko è più simile comunque al gattone Benzema. Esatto. Rimanendo sulla squadra che gioca sotto casa tua, cioè Real Madrid, ho due cose da chiederti. La prima riguarda il giocatore che è arrivato al Milan, che adesso il milanismo dice, vabbè, Theo Hernandez ha funzionato, adesso arriva Brahim Diaz, funzionerà anche lui. Sentiamo Maldini. È un giocatore che può variare sul fronte offensivo nelle tre posizioni che in questo momento noi abbiamo davanti. Abbiamo finito il campionato con un 4-2-3-1, quindi nelle tre posizioni davanti lui può essere comunque un giocatore che può fare la differenza. Dunque, Filippo? Talento sicuro, però poi bisogna vedere. Quest'anno in Liga ha giocato 59 minuti. Sono in pochino. Tutta la Liga. E non è che... Zidane lo odiava o si è fatto male o sì, cioè, piccoli acciacchi, però insomma non si è rotto un legamento, insomma, no, hanno giocato altri e ha giocato tanta altra gente, quindi e prima è il City, dove era prima di venire a Real Madrid, l'ha venduto, per cui bisogna vedere. Qua bisogna fare una premessa, Serie A e Liga sono due mondi a parte, sì, separatissimi, cioè, i casi di Ocampos e Banega mi sembra che siano gli ultimi che possiamo citare, emblematici, Suso anche se vogliamo, insomma, e adesso arriva Theo Hernandez anche, io su Theo Hernandez non ho mai avuto dubbi, avevo dubbi sul carattere, perché comunque lui era stato all'Atletico, al Real Madrid, e c'erano sempre stati problemi fuori dal campo, in campo è sempre stato uno molto molto forte. Qua si è sistemato, per cui adesso Brahim Diaz, per me il Milan fa benissimo a prenderlo e ci prova. Poi quello che otterrà da lui, io sinceramente non so cosa rispondere, non è che ti posso dire no, sì, ma non si può fare l'equazione, non l'ho mai visto giocare, non gioca mai, quindi non è che ti posso dire ah sì, è fortissimo, sì, sicuramente ha del talento, perché sennò non lo prendeva Guardiola certo, non lo prendeva Zidane e non lo prendeva Real Madrid, sì, il talento c'è, però è una scommessa, ragazzi, una scommessa che è anche forse il motivo per cui infatti viene in prestito, no? Cioè, si può fare un tentativo, assolutamente, no, il tentativo ha fatto spendendo soldi, sta facendo operazioni importanti. Sì, sì. Però no, non c'è. Però non se c'è mi chiedi, io dico, non lo so, l'avrò visto giocare tre volte degli spezzoni, sembra ovviamente un ragazzo di talento, ha giocato anche nelle nazionali giovanili, ha fatto bene, però ecco, come lui, sono tanti gli spagnoli, quel prototipo in Spagna. Però tu dici, al Real faceva riserva della riserva della riserva. Insomma, 59 minuti in 38 giornate sono quelli. Super riserva fissa. Invece il Real Madrid che verrà? Ah, per ora quest'anno si sapeva, lì io apprezzo molto la sincerità di Florentino Perez. Quando hanno vinto la Liga, il presidente è uscito, ha detto no, nessun colpo, non niente, Mbappé, cose, no, quest'anno non ci sono soldi, e vuol dire, si perde, poi dopo stanno comunque rifacendo lo stadio, insomma, quest'anno tornano i prestiti, torna Odegaard, che è l'unico, e gli altri stanno piano piano vendendo, per me, come, tra l'altro in maniera molto valida, perché appunto piazzano giocatori e c'hanno solo una grana che si chiama Gareth Bale. Vedi allora che Pierluigi ha ragione nel dire che Tebas altro che preoccupato, Pier, perché se il Real Madrid ha risparmio totale, il Barcellona svende e forse perde anche il re, beh, qualche ragione ce l'ha Tebas nel essere preoccupato. Non so se avete visto la pubblicità, credo di BT, la possiamo dire, tanto in Italia non c'è, quindi non è fare pubblicità con Gareth Bale, che fa autoironia su se stesso. Sì. La gag è che praticamente nel calcio del futuro ci saranno sostituzioni illimitate, e lui che sta lì, quindi posso giocare qualche partita, ma in realtà sta sul campo la gol. Sì, e come sapete, insomma, lui fece quella famosa frase, che appunto in ordine di importanza c'è, cioè, ogni Galles, il gol e il calcio. No, è il Madrid. Il terzo era il Madrid, sì, Madrid, sì. Hai ragione. Galles Golf Madrid, sì. Galles Golf Madrid, diciamo che a Madrid probabilmente non l'hanno resa benissimo questa cosa qui. Anche perché poi c'è questo stipendio, non so più se sono 17, sì, 18 milioni ancora, sì, per due stagioni, sì. Però voglio dire, stai in panchina, dorme con la mascherina sugli occhi. Bale ha vinto anche 4 Champions, cioè bisogna ricordare, è stato decisivo nelle finali, cioè, e poi il golf è bellissimo, esatto, e poi il golf è un gioco, per cui insomma, quindi le priorità sono quelle, e va bene così, insomma, adesso sì, vediamo anche quella come va a finire, però lui è tranquillissimo. Come perché va a finire? che dorme in panchina con la mascherina sul naso, esatto. Tranquillo. Sono preso con Arthur perché ha sbadigliato. Di Arthur poi voglio parlare con te, perché insomma anche su Arthur, valutazione stratosferica, operazione di convenienza dal punto di vista dei bilanci da entrambe le parti, però sul fatto che la Juve abbia preso un giocatore, un crack, sicuro, qualche dubbio ce l'ho. No, ma io no. No, tu no. Ebbene, mi spieghi tutto dopo la borsa, dove parleremo, c'era anche Guido Vaciago, di due questioni. La prima è questa di Arthur, e la seconda dello strano caso del passaporto del signor Suarez. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. La Juventus a inizio agosto ci ha trasmesso un dossier molto ben dettagliato, un dossier che dice quando si può entrare, come si può entrare, quante persone possono entrare, come ci si deve comportare durante la manifestazione sportiva, e devo dire che i nostri uffici hanno riscontrato che, secondo il Dipartimento di Prevenzione della Regione Piemonte, il rischio non c'è. Auspichiamo che i tempi romani siano tempi che poi permettano di organizzare gli eventi sul territorio, per cui io ieri ho trasmesso a Roma la documentazione e mi attendo entro la fine della prossima settimana di avere una risposta, in modo che poi Juventus possa partire. Questo governatore Piemonte Cirio circa un'ora fa con Alessio Maurizi, Filippo Maria Ricci qui con me in studio, ovviamente c'è Pierluigi Pardo, c'è Guido Vaciago di Tutto Sport. Ciao Guido. Ciao, buongiorno, ciao Filippo. Lecito attendersi Juventus-Sampdoria con un po' di pubblico sugli spalti. Ci sono i governatori in questo momento che stanno cercando, i governatori italiani, di far saltare i lucchetti degli stadi e dei palazzetti, ovviamente subiudice verso il CTS. Ti aspetti di vedere gente allo stadio della Juve, ma anche a quello del Toro, perché ovviamente il governatore ha detto io sono juventino, però... Anche Torino, stiamo lavorando anche con il Torino, sia chiaro. No, me lo auguro più che aspettarmelo. Me lo auguro perché sarebbe importantissimo, sarebbe fondamentale. Ora, i tempi tecnici ci sono. La Juventus ha lavorato di anticipo e ha preparato un piano, quindi una volta che il suo piano viene approvato la Juventus sarebbe pronta, perché il piano l'ha studiato su misura per se stessa. No, ma l'ha detto chiaramente, protocollo, hanno la certificazione della Regione Piemonte, quindi... Certo, no, ma infatti questo è il problema è capire negli altri stadi, perché secondo me l'unica cosa, la cosa più importante sarebbe che questo avvenisse contemporaneamente in tutta la Serie A. È chiaro, perché io anche prima ho fatto notare al Cirio che sarebbe... Detto ciò, io ti dico che parlando con la Juventus a luglio, quando c'era ancora lo scorso campionato in corso, quello di far rientrare le persone era, ti dico, più di una priorità, era quasi un'ossessione, cioè loro stavano studiando in tutti i modi, quindi non mi ha stupito la mossa della Juve, perché è da diversi mesi che li sento concentrati su questa opportunità, e credo sia giusta, perché poi ce lo siamo detti tante volte, il calcio senza pubblico... No, ma questo è chiaro, servirebbe una regia nazionale, cioè è chiaro che i governatori hanno il potere di studiare situazione per situazione, lo fa Bonaccini in Emilia-Romagna, lo fa Fontana in Lombardia, ci sono partite di basket che potrebbero giocarsi, di Supercoppa italiana, potrebbero giocarsi a porte aperte già il prossimo weekend, se ci sono le condizioni. Insomma, ho detto, i governatori stanno cercando di far saltare i lucchetti, però... manca una regia sovraregionale, ovviamente statale, in attesa della parola del CTS. In Spagna qual è lo stato dell'arte? Ci stanno provando, però secondo me siamo più indietro. Più indietro? Sì, siamo più indietro, perché adesso poi ci sono i nostri numeri, quando dico nostri, spagnoli sono peggiori rispetto a quelli italiani, per cui sì, mi sembra che qui si sia lavorato, non so se è meglio, comunque con un pochino più di anticipo, e se la situazione è, diciamo, più avanzata. Pierluigi, penso sia, cioè facciamo, si faccia tutti il tifo per una riapertura anche parziale, tifo, quello che vuoi. Si fa tutto il tifo, è un obiettivo di tutti, la regia nazionale è quello che serve, perché altrimenti si rischiano delle situazioni paradossali, quindi un protocollo che sia un protocollo che vale per tutti. C'è un tema, secondo me, vero, che in qualche modo abbiamo evocato in questi giorni, di ridefinizione del concetto di stadio, questo sai che vale per tutti, i grandi architetti si interrogano, i grandi urbanisti si interrogano sulle città post lockdown e post pandemia, no? Cioè, la suggestione dei borghi che punta sul centro delle città, vabbè, insomma, la città in 15 minuti della Hidalgo, il sindaco di Parigi, senza farla tanto lunga, anche lo stadio e il modo di fruizione dello spettacolo calcistico potrebbe cambiare, perché noi siamo abituati in una certa maniera, che piaccia o no, insomma, noi siamo abituati che soprattutto nelle curve, ma non soltanto nelle curve, la partita la si vive ammassati, ci si abbraccia dopo i gol, quindi voglio dire, secondo me è giusto fare un io sono sempre l'idea che meglio che niente, ma è piuttosto, com'è che dite voi qua a Milano? Meglio che niente, ma è piuttosto. Ecco, questa cosa qua che volevo dire, che non sono riuscito a dire, cioè, quindi meglio 10.000 persone piuttosto che 0 persone, però è ovvio che bisogna un po' ridisegnare tutto, anche i comportamenti delle persone, per me vale la pena, certo. Per me vale la pena comunque, perché l'alternativa è starsene a casa. E ma credo che si debba cominciare, guarda, sono abbastanza ottimista da questo punto di vista, magari sbagliandomi. Andiamo a un altro... è ovvio. Andiamo invece su un altro punto burocratico, perché vi dicevo prima la strana vicenda del professor Suarez e del suo passaporto, Filippo Maria Ricci, perché dicevamo, cioè, si è scoperto una cosa particolare. Suarez non occupa posto da extracomunitario con il Barcellona, e quindi tutti noi pensavamo che avesse un passaporto comunitario, no? Spagnolo o italiano. Sì. Passaporto italiano ce l'ha la moglie e ce l'hanno i figli. E in Liga vale il passaporto della moglie, è sufficiente per non occupare un posto da... Cioè, questo, esatto, fa ridere, mi sembra interessante. In Italia, invece, giustamente, secondo me, ti chiedono il tuo di documento, non quello di tua moglie. Magari tua moglie, non so, mai neanche ci stai più. Esatto. E quindi è venuto fuori che in questo momento Luis Suarez ha solo il passaporto uruguaiano. E quindi ha avviato le pratiche presso il consolato italiano. 5 minuti, due bollettini te lo fanno. No, perché adesso da un anno e mezzo per qualsiasi cittadino straniero che faccia domanda di un passaporto italiano e lo può tenere, perché soprattutto diciamo legato sono passaporti legati alla cittadinanza della moglie, deve sostenere un piccolo esame, cioè deve, non è che deve fare un esame, deve provare di avere una minima conoscenza della nostra lingua. Le province della Toscana, esatto, e quindi i livelli partono dalla A, quindi A1, A2, è richiesto un B1, per cui forse non diciamo magari non proprio i congiuntivi, qualcosina, insomma, qualcosina, sì, deve dimostrare di sapere. L'ananas sulla pizza, l'ananas sulla pizza non si mette, è così. Adesso questo certificato te lo rilascia qualsiasi scuola parificata, così. E adesso immagino che dal clan di Suarez si stiano diciamo muovendo per ottenere questo B1. Sì. Piccolo inghippo, Guido, ma non credo padre di tutti gli inghippi se sei la Juventus e vuoi Suarez, no? No, infatti credo di no. Insomma, oddio, diciamo, deve ottenerlo il passaporto, esatto, perché se no altrimenti è una condizione sine qua non, perché qua siamo la Juventus è a tappo con gli extracomunitari, quindi comunque questo potrebbe essere un problema. Non credo che sia un problema per lui ottenere questo passaporto. Nel frattempo prosegue questa corsa, perché io sono convinto che se Suarez ha fatto una rimonta clamorosa negli ultimi 3-4 giorni rispetto a Dzeko, non credo che Dzeko sia completamente fuori dai giochi, e credo che sia anche proprio una questione di tempo. La trattativa di Dzeko mi sembra bloccata più dal Napoli che dalla Juventus, perché se il Napoli non si mette d'accordo con la Roma per il passaggio di Milik, la Roma non lascia partire Dzeko. Se domani mattina il Napoli dovesse mettersi d'accordo con la Roma, io sono convinto che poi la Juve andrebbe a chiudere Dzeko senza rischiare di aspettare Suarez. Viceversa, se la trattativa tra il Napoli e la Roma dovesse continuare in qualche modo a traccheggiare, dovrebbe continuare a essere congelata, la Juventus andrebbe avanti su Suarez. Sì. Però io credo che ma la prima scelta qual è? Ecco, bravi. Qual è la prima scelta? E soprattutto perché c'è il dibattito, c'è grande dibattito tattico. Io dico che per me Suarez è quasi sul livello, anche se è calato, quello che volete, ma è quasi, cioè è uno di quei giocatori che ti aumenta talmente tanto il tasso tecnico che serve, e se la Juve lo cerca un piano in testa ce l'avrà. Certo, Dzeko è più funzionale a vederlo così, è chiaro, un giocatore più anche al servizio con il resto dei compagni. La verità qual è? La verità la scopriamo subito dopo il traffico, ecco, vi rubo altri 2 secondi. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, la verità, Guido, qual è? La prima scelta da Juventus, Dzeko Suarez. Guarda, Pirlo preferirebbe Dzeko, perché vede la questione dal punto di vista forse più tattico, e lo vede maggiormente funzionale al suo gioco offensivo e soprattutto al compensare anche certe anarchie tattiche di Ronaldo. Credo che però all'interno della dirigenza non dispiaccia l'idea di Suarez. Più che dal punto di vista tecnico, dal punto di vista caratteriale, perché se qualcosa è mancata nella scorsa stagione e in alcuni passaggi è stato proprio quella ferocia che uno come Suarez potrebbe garantire in misura maggiore rispetto a Dzeko. Quindi citofonare Chiellini. Esatto. Cristiano che dice? Guarda, Cristiano, secondo me l'importante è che si lasciano fare quello che lui vuole fare, partire da sinistra, centrarsi, che non gli rompano troppo le scatole in quel movimento. Credo che Cristiano apprezzi più o meno vale il discorso fatto prima, che Cristiano veda in Suarez qualcuno che gli assomiglia dal punto di vista caratteriale, con quella ferocia agonistica del campione. che però apprezzi certamente anche uno come Dzeko, che probabilmente è un giocatore con il quale potrebbe dialogare anche meglio, comunque non possa dialogare con Suarez. Suarez ha giocato per 6 anni. Tatticamente non c'è dubbio. Non c'è dubbio, però la caratura di Suarez, secondo me, soprattutto immagino un Suarez motivato, no? Che viene qui a svernare, ma che trova nuovi stimoli, e soprattutto uscito da quella bolgia che abbiamo scoperto essere ultimamente, insomma, Barcellona, purtroppo dei tifosi culé, insomma, tutto questo è una grande suggestione, secondo me. D'altra parte, Filippo, come saprai bene, non si muove foglia che Ronaldo non voglia, visto che siamo in tema di proverbi. Esatto, e quindi immaginiamo che abbia dato il suo l'ok a entrambe le operazioni. Sì. E, sì, avete già detto tutto, insomma. Ma può essere una motivazione quella che diceva Guido, cioè sì. Tu cerca quella rabbia lì, quella ferocia lì. Secondo me sì, e Suarez è in campo pesa tantissimo, insomma è uno che impegna, che litiga, che insomma che fa sportellate, quindi in questo senso magari tatticamente Dzeko può essere meglio, però è chiaro che Suarez libera tanti spazi, abbiamo visto Messi andare tante volte in gol, perché comunque c'era la partita, cos'era, a Londra col Tottenham l'anno scorso, mi sembra c'è stata una partita clamorosa in cui effettivamente Suarez prolunga questa sua serie negativa senza gol fuori, però fa segnare due volte Messi in maniera clamorosa, insomma, ecco. Quindi per me Ronaldo può vedere qualcosa in questo senso, sia a livello tattico e soprattutto a livello caratteriale. È uno incredibile. Poi qualcuno un giorno, quando faremo proprio le puntate vintage, mi spiegherà perché Mandžukić, che secondo me è un giocatore perfetto. Diciamo che aveva una tendenza a non accettare la panchina, che è un po', quello, sì. che non ha aiutato, diciamo, l'operazione. Non ha aiutato. Qualche scontro caratteriale, poi sì, secondo me Mandžukić era perfetto il primo anno di Ronaldo, nei primi 3 mesi sembrava essersi creata una simbiosi quasi paragonabile a quella Ronaldo-Benzema. Dopodiché però, devo dire la verità, quell'anno lì, la seconda parte di stagione, Mandžukić era un po' scomparso. Aggiungiamo comunque l'ingaggio molto elevato e i problemi fisici ripetuti, però in valore assoluto Pierluigi ha ragione. Grazie Guido, grazie Pier, anche a te, ci sentiamo domani. Ciao. Con il mio amico Filippo Mariarici, che si è presentato qui in redazione, devo dirvi, con un sacchetto, una busta della spesa dell'NBA. Cos'hai comprato? Due cosine per mio figlio, che è un appassionato. Squadra? Che squadra? Neanche mi ricordo bene. Bravo. Perché ha scelto lui. Quindi abbiamo fatto... c'era una cosa dei Golden State e l'altra Miami, mi sembra Heat. Queste due cose. Poi lo controlliamo. Però Simone non Sandri sicuro. Dalla bolla di Orlando. Golden State neanche c'è arrivata nella bolla di Orlando. Miami invece è discretamente on fire. Ciao Simone. Buon pomeriggio Carlo. Peraltro è il mio ultimo giorno di bolla, perché oggi pomeriggio riparto, poi ritornerò per le finali, ma esco finalmente dopo quasi 6 settimane dalla bolla per tornare a New York. Sì. Sei curioso di sapere qualcosa dalla strana bolla NBA? Io sicuramente, mi sembra un fenomeno, una cosa meravigliosa. Meravigliosa. Non seguo tantissimo. Chiede a LeBron James, che non vede l'ora di evadere. Vabbè, cioè, normale, sta cercando, forse anche Simone voleva, l'ho sentito contento di evadere, però insomma, penso si sia visto un bello spettacolo, torniamo sempre lì. No, spettacolo, bisogna dire la verità, è sorprendente, soprattutto all'inizio, perché dopo 4 mesi di layoff, 4 mesi di lockdown, e ovviamente si sono allenati in teoria, poi in pratica evidentemente si sono allenati i giocatori, il livello di competizione e lo spettacolo anche, ma anche proprio il timing, la disciplina sia difensiva che offensiva, veramente sono stati sorprendenti. Infatti il livello di pallacanestro è stato eccezionale. Nei playoff c'è un'intensità diversa e ci sono anche abbastanza alcuni risultati sorprendenti, ma sicuramente non possiamo lamentarci di quello che stiamo vedendo sul parquet nella bolla. Intanto io sto facendo cioè, mattina presto per vedere le partite, ho visto in diretta la fine di Houston di gara 7 tra Houston e Thunder. D'Antoni, da allenatore di Houston, continua: Danilo Gallinari, pessima gara 7 per lui, solo 4 punti, ininfluente e irrilevante, con un tiro libero sbagliato negli ultimi secondi, 104-102, gara 7 la vince Houston e va con i Lakers. Sì, è stata, a un certo punto è stata partita un po' a ciapanò, gli ultimi 5 minuti dove sbagliavano tutti, c'erano stati una serie di errori, anche di giocatori ovviamente che in quei momenti lì ti aspetti che faccia una differenza, come Harden e lo stesso Chris Paul. Alla fine, paradossalmente, ha fatto la differenza una giocata difensiva di Harden, che è una cosa che è anche da dire, fa anche un po' ridere, per una partita invece da un punto di vista offensivo veramente deludente di Harden. L'ho sentito dichiarare, l'avrei sentito anche tu nelle interviste post partita: offensively was a shit. Sì, esatto, sorry for the word. E non è stato bippato, e infatti c'è stata anche polemica su questo, perché è andata nella televisione americana, non è stato bippato la sua S-word, come si dice a queste parti. Ma sicuramente ha perfettamente ragione, ha giocato malissimo, e sarebbe stato, da un certo punto di vista, se Houston avesse perso, sicuramente oggi si parlerebbe solo di quello, dell'ennesima gara 7 deludente da parte di Harden. Invece gli dei del basket hanno deciso di fargli fare questa giocata difensiva che ha un po' cambiato le prospettive di tutto. Oklahoma City esce dopo aver giocato una serie di playoff up and down, cioè con un po' di scontino soprattutto all'inizio, poi è tornata alla grande grazie soprattutto a Chris Paul. Però non dimentichiamoci l'annata pazzesca di Oklahoma City, perché Oklahoma City a inizio stagione a Oklahoma City danno lo 0.2% di arrivare ai playoff, e questi sono arrivati quinti, hanno giocato un basket straordinario soprattutto da gennaio in poi, sono stati paradossalmente penalizzati più di altri per la pausa post-Covid, perché loro avevano proprio trovato la chimica in quel momento lì, e poi alla fine purtroppo quando si arriva a gara 7, si arriva all'ultimo minuto, tutto può succedere ovviamente. Miami, per chiudere invece, 2-0 sui favoritissimi Bucks, e questa sia un'altra notizia, 106-104 la seconda partita. Assolutamente, Miami è forse la squadra che sta producendo il basket migliore nella bubble in questo momento. Paradossalmente forse in questo momento sono i favoriti a Est, perché hanno trovato una chimica pazzesca, un Butler veramente di un livello eccellente, e soprattutto hanno la chiave per cercare di mettere la museruola a Giannis, se non è facile ovviamente, però hanno Adebayo, che è un giocatore atletico di fisico, che però può infastidire Antetokounmpo in diverse situazioni, per cui è veramente una squadra che sembra fatta apposta per creare problemi ai Bucks. Non a caso i Bucks hanno perso le prime due, ha perso le prime due anche Toronto, che era l'altra, se vogliamo, favorita ad Est, ed è la prima volta nella storia, è vero che la bubble fa un po' storia a sé, ma è la prima volta nella storia che la prima e la seconda testa di serie a Est partono con una serie perdendo le prime due partite. Sì, lo dico anche a nome di Michele Dalai: occhio ai Boston Celtics. Grazie Simone, a prestissimo. Grazie anche a voi. Se sei fuori dalla bolla, continueremo a cercarti a New York. Vabbè Filippo, c'è un ascoltatore che prima mi ha scritto: vogliamo Filippo Maria Ricci in diretta tutti i giorni. Io sottoscrivo, cosa vuoi che ti dica? Io Milano sembra una città meravigliosa, per cui sì. Chiedo al papà di Messi se... Va bene, esatto. Allo stesso studio di avvocati. Tratto un escape, trattiamo. Esatto. No, ci sentiamo da Madrid. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie. Alla prossima. Grazie Filippo Maralici, Edoardo Lavezzari in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Domani tutti convocati alle 2. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani. Enjoy! Saluti!